Parecchie persone degne di stima, o che perlomeno considero tali, da Fausto Bertinotti a Giorgio Galli, hanno trovato modo nel corso di quest'ultima settimana di dichiararsi personalmente convinte dell'innocenza del senatore Andreotti e di doversi quindi per la severa condanna inflittagli domenica scorsa dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia. Lì per lì vi confesso mi è venuto spontaneo unirmi al loro giudizio, tanto l'idea di un padre della patria presunto tale mandante di un omicidio mi pareva a me come a tutti incongrua e bizzarra. Poi ci ho riflettuto un po' su e mi sono reso conto che in definitiva quel mio innocentismo non aveva un fondamento vero e proprio, e non soltanto perché sul caso Pecorelli ne ho sempre saputo poco, e quel poco inevitabilmente l'ho dimenticato con gli anni. Il fatto è che quasi tutti i critici a cui mi riferisco, diciamo quelli di sinistra, perché degli ex democristiani storici o di complemento non mette conto parlare, e quasi tutti quei critici hanno fatto una distinzione che a pensarci mi sembra discutibile. Andreotti, hanno detto, più o meno tutti, resta esecrabile per la sua storia politica, per il sistema di potere illegale o extralegale che ha costruito, per le pratiche di governo e di sottogoverno di cui è stato uno dei massimi promotori e garanti, tuttavia la responsabilità penale è qualcosa di irrimediabilmente individuale, e il fatto che un politico sia al centro di un sistema tra i più nefandi non autorizza nessuno a considerarlo capace di incaricare un sicario di togliergli dalle scatole un giornalista scomodo. Ora, questo è vero naturalmente, anche se, come credo abbia fatto intendere Thomas Tierney-Eliot nell'assassinio della cattedrale, ci sono tanti modi e non tutti espliciti o intenzionali per mettere in moto eventi di quel tipo. È vero, ma di una verità, diciamo, non troppo difficile da ribaltare. Anche la responsabilità morale, in fondo, è personale e indivisibile. E non è obbligatorio far proprio quel paradosso stoico che esclude nel peccato parvità di materia, come si dice, e per cui il furto di uno spillo sarebbe altrettanto riprovevole di una strage, e per supporre che in una coscienza che si è rivelata per qualche verso moralmente un po' elastica e possono allineare tentazioni più gravi. Nello specifico, l'aver saputo organizzare a nome di certi interessi, non importa se personali, di gruppo o di classe, un sistema di potere fondato in qualche modo sulla connivenza con la mafia, non è quell'elemento che fa presupporre quel tipo di moralità intemerata che spinge chiunque a scartare con orrore l'ipotesi di una condanna per omicidio. L'osservazione non viola, rassicuro, la presunzione costituzionale di innocenza, perché il collegamento comunque non è obbligatorio, ma visto che a pensare, seppure spesso ci si azzecca, si fa comunque peccato, a pensar male, seppure spesso ci si azzecca, si fa comunque peccato, e forse sarebbe più giusto e opportuno non pronunciarsi in termini di colpa di innocenza e lasciare che su quelle accuse il senatore Andreotti se la veda, oltre che con i giudici, con il suo Dio. Seconda parte, no? E tutto questo si intende non ha nulla, ma proprio nulla a che fare con una valutazione che invece è doverosa e opportuna sulla sentenza di Perugia, che mi sembra, anche senza aspettare la lettura delle motivazioni che tanto non aspetta davvero mai nessuno, e mi sembra quanto di più discutibile e pernicioso sul piano del giudizio e del buonsenso si possa immaginare. Discutibile perché, che se ne dica, fa specie vedere capovolgere in appello una soluzione pronunciata in primo grado dopo un regolare dibattimento, e infatti in molti sistemi giudiziari più ragionevoli non è possibile farlo. Discutibile perché tutto il caso è costruito stringi stringi sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e tutti sappiamo di quanti danni la pratica del pentitismo sia stata causa nel paese. Discutibile perché nel processo altre prove non se ne sono proprio viste, e comunque un dispositivo che manda assolti i supposti esecutori mentre inchioda il mandante avrà il pregio di essere originale, perché di solito si fa il contrario, ma lascia veramente spazio al sospetto di essere stato costruito ad personam. E fa specie, ne converrete anche voi spero, vedere come in difesa di una condanna così controversa e controvertibile, nonostante le ragionevoli prese di posizione di cui riferivo in apertura, e nonostante che una quantità di eventi di pochi giorni prima consigliassero in argomento di giudizi sulla magistratura di esporsi il meno possibile, in difesa di quella sentenza si sia regolarmente schierata buona parte dell'opposizione della sinistra, dall'inconsistente Rutelli al mite Fassino, per non dire dei responsabili dei DS, di senatori e deputati vari, di un appositamente costituito comitato La legge uguale per tutti, dei soliti fondisti e commentatori in servizio di complemento e persino, ahimè, di qualche nostro collega qui a Radio Popolare. Fa specie, ma purtroppo non stupisce nessuno. Quella di appiattirsi a pelle di fico in difesa di giudici e procuratori vari, se proprio il loro comportamento non lo rende impossibile, e anche quando il loro comportamento lo renderebbe impossibile, è a sinistra una reazione non meno condizionata della salivazione dei cani di Pavlov. Ed è inutile, di fronte a chi non perde un'occasione che sia una per uggiolare sulle minacce che incombono sull'indipendenza del terzo potere, e ricordare che quell'indipendenza è sì uno dei fondamenti dello Stato di diritto, ma serve a qualcosa solo se la magistratura se la merita sul serio, nel senso che va incardinata comunque a un sistema di valori tali da assicurare veramente giustizia a tutti. Sarà lecito, spero, far notare che la magistratura in Italia è deboluccia quanto a cultura della prova, è abbarbicata più di un'ostrica alle consuetudini del metodo inquisitorio, che la sua organizzazione interna è sbilanciata a favore del settore inquirente, che tra diritti della difesa e poteri dell'accusa si continua ad avvertire una sgradevole sproporzione, che i processi durano un'eternità, lo sappiamo tutti, che la gestione quotidiana delle cause non è proprio quanto di più entusiasmante si possa immaginare, e che in definitiva se i magistrati negli ultimi anni hanno scritto qualche pagina positiva, non mandando da nessuna parte, cercando di eliminare dalla politica qualche ladro, se ne sono lasciate sfuggire dalla penna parecchie davvero poco brillanti. Il fatto che alcune di queste cose le dica, ahimè, anche Berlusconi, che avrà, figuriamoci, i suoi motivi per dirlo, mi sembra francamente irrilevante. E da una sinistra seria ci si aspetterebbe che prenda posizione in base ai propri valori. La logica per cui i nemici dei miei nemici sono sempre amici miei non porta di solito particolarmente lontano. Anche perché a un certo punto si scopre com'è e come non è che i supposti nemici hanno fatto la pace e tu sei restato inimmediabilmente in braghe di tela. Tutto questo ben considerato, può essere interessante chiedersi come mai tanti campioni del giustizialismo abbiano avuto il coraggio in questa occasione di fare eccezione a se stessi, deplorando a gran voce la condanna dell'amico Giulio. Che persino il Presidente della Repubblica, che in altre occasioni guai a cercare di strappargli una parola di bocca, stavolta abbia sentito il bisogno di dichiararsi in qualche modo turbato, e cosa, converrete, su cui può essere utile riflettere seriamente. O forse magari no. Forse è meglio lasciare ciascuno le proprie contraddizioni se le smazzi da solo. E Andreotti, sarebbe interessante analizzare come, negli ultimi 20 anni è riuscito a elevarsi molto al di sopra del suo status di pure eminente autorevole leader democristiano. È diventato un'icona, il simbolo stesso di una classe dirigente che in lui da destra e da sinistra si rispecchia e in cui si riconosce senza distinzione di parte ormai. È vero, è stato a lungo la longa manos del Vaticano, ha definito con lo sprezzante epiteto di culturame la causa di quanti lottavano per la libertà d'espressione, ha avuto un ruolo fondamentale quando era ministro della difesa per portare la NATO in Italia, l'Italia nella NATO, è stato il perno e l'asse portante di innumerevoli combinazioni politiche di stampo decisamente conservatore e in alcuni casi un po' peggio. Ma tutto questo oggi non conta più. Oggi, sai Dio perché, Andreotti è soltanto lui, il prototipo beatificato dell'uomo politico nazionale. La reazione di chi, a costo di una clamorosa incoerenza con se stesso, si precipita a difenderlo nel momento del bisogno, non deve stupire più di quella di chi, nel momento del bisogno, si accinge a difendere se stesso. E che questa reazione contagi tante brave persone che dal potere sono personalmente lontane e che non sembrerebbero avere motivo alcuno per identificarsi con Andreotti, beh, anche questo in fondo non deve meravigliarci. Non è soltanto l'uso degli stupefacenti o dell'alcol a indurre in assuefazione. Ci siamo tutti talmente assuefatti ad Andreotti che non riusciamo bene a capacitarci di come faremo senza di lui. E beh, forse a questo punto sarebbe il caso di pensare a qualche seria terapia di disintossicazione. Pretty women are walking with gorillas down my street.